Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Siamo nel cuore dell'Europa. Forse non è un cuore geografico, forse è un cuore più spirituale, se volete, ma è sicuramente il punto in cui alcuni cittadini europei hanno mostrato a tutti gli altri quello che va fatto. Da Renzi è arrivata questa dichiarazione da Lampedusa. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dove è volato oggi il Presidente del Consiglio per ricordare che l'avamposto dell'Europa sul Mediterraneo, ormai simbolo dell'emergenza immigrazione, tra l'altro proprio in un momento, man mano ci si avvicina alla buona stagione in cui le cose saranno destinate inevitabilmente a peggiorare. Ha voluto ricordare anche appunto questo avamposto dell'Europa anche in un momento di grande crisi, perché diciamolo, ormai da qualche anno l'Europa come continente sta vivendo veramente una serie di crisi, da quella economica, poi siamo passati all'emergenza immigrazione, continua tuttora come del resto anche la crisi economica, e a questo punto anche l'emergenza terrorismo. Quanto si è parlato in questi giorni, già se ne parlava da tempo, però ogni volta che c'è un attentato si ritorna a parlarne. Ieri quel vertice straordinario di cui ci siamo occupati sulla necessità di un'intelligence unica, di un coordinamento europeo per uno scambio di informazioni tra 28 paesi sulla sicurezza. Però, come ci diceva ieri il nostro inviato, insomma, anche per questa volta, per l'ennesima volta, sembra che non ci sia nulla di concreto, che non sia emerso nulla di concreto nei fatti, insomma, rispetto a ciò che è stato detto ieri. Comunque, questa sera, ultima puntata della settimana di Effetto Notte, quindi faremo il punto, come sempre, un po' più ridotto sulla politica, ma soprattutto poi un punto su gli attentati, gli ultimi aggiornamenti. Purtroppo è arrivata anche la notizia che l'italiana che era dispersa, Patricia Rizzo, è stato confermato che è morta. Parleremo però anche con un esperto di terrorismo, di sociologia, anche del terrorismo, che cosa ne pensa di quello che è successo questa settimana? Ed è una domanda che pongo anche a voi, lui naturalmente lo farà da esperto, voi da osservatori, da opinione pubblica. Vi chiedo quali sono le vostre riflessioni dopo questa settimana tragica, perché appunto per quanto riguarda gli attentati, poi una settimana fatta di blitz, di vertici, di notizie, di smentite, di falle, di ritardi, di annunci, appunto non si sa quanto poi seguiti dai fatti, e di rivelazioni anche di inadeguatezze, no? Qui si parla veramente, si poteva parlare di un Belgio con la brodo, ma evidentemente non soltanto il Belgio in modo particolare. Quindi, quali sono le vostre riflessioni dopo questa settimana tragica e caotica insieme? 349-238-6666, sempre il numero per i vostri messaggi SMS, oppure c'è sempre per voi comodamente la pagina Facebook di Effetto Notte, che lì giorno e notte per voi, ho visto che avete continuato a scrivere tantissimi messaggi sia sulle lacrime di Federica Mogherini sia anche sulla proposta di ieri di Massimo D'Alema, che diceva introduciamo l'8 per 1000 anche per costruire le moschee, in modo che questo possa integrare meglio i musulmani. Potete continuare anche a scrivere, poi leggerò magari anche qualcuno di questi messaggi. Stasera in particolare vi chiedo quali sono le riflessioni dopo questa settimana. Intanto, sintesi di questa giornata. Bruxelles ce la conferma, l'italiana Patricia Rizzo è morta negli attentati, oggi nuovi arresti nella capitale belga con qualche giallo, e si apprende che Salah non collaborerà con gli inquirenti. Guerra terrorismo, ucciso il cassiere dell'ISIS in un'operazione americana, era il numero 2 del califfato. L'omicidio di Giulio Regeni, ennesima versione dell'Egitto, l'ira dell'Italia. I genitori di Giulio dicono il governo reagisca a questa messa in scena. Italiani in viaggio, il Viminale rafforza i controlli e i posti di blocco sulle autostrade, via Crucis blindata al Colosseo. Sport, doping da record nel rugby, positivo a 11 sostanze vietate un giocatore dell'Amatori Catania. Partiamo quindi dagli aggiornamenti sulle indagini relative agli attentati di martedì a Bruxelles. La prima notizia è purtroppo la conferma che l'italiana, finora vi dicevo data per dispersa dopo gli attacchi di Bruxelles, Patricia Rizzo, è morta. Lo ha reso noto il cugino Massimo Leonora su Facebook, ha scritto: purtroppo Patricia non è più con noi, così ha scritto il familiare. Le indagini in corso sugli attentati che sono costati la vita martedì scorso a 31 persone, ma a questo punto quindi purtroppo il bilancio sale almeno a 32, hanno portato nella notte, questa notte, l'arresto di 7 persone nella capitale belga e a Yete. Tra questi ci sarebbe anche Faikal Sheiful, l'ormai famigerato uomo col cappello bianco avvistato all'aeroporto. Ma la grande svolta della giornata è il raid del primo pomeriggio a Sherbeek, dove è stato ferito e arrestato un uomo, anche se restano dubbi sulla sua identità. Si parla di un pesce grosso, ma insomma non so, sono arrivate varie smentite. È stata una giornata un po' caotica, e vi dicevo anche con diversi gialli. Fra l'altro si apprende che Salah Abdeslam, regista degli attentati di Parigi del 13 novembre, catturato in questi giorni dopo 4 mesi di latitanza e stava tranquillo nel suo quartiere, ha detto che non vuole collaborare, che non vuole sapere. Quindi anche qui notizie smentite, perché prima dice sì, collabora, poi non collabora, poi sì, poi no, eccetera. Ma tra poco ci colleghiamo col nostro inviato a Bruxelles, che ci dirà più nel dettaglio. Intanto vanno avanti anche le operazioni contro l'ISIS della coalizione guidata dagli Stati Uniti, e arriva l'annuncio dal Pentagono: è stato ucciso il numero 2 dell'ISIS, il cassiere del sedicente califfato. Eliminating ISIL's cabinet. Indeed, the US military killed several key riferirlo questo, lo sentite, il capo del Pentagono Ash Carter, che ha confermato l'operazione e la morte di uno dei 3 obiettivi di maggior valore, dice, nella lotta dell'ISIS. All'ISIS, ha detto Carter, non ha rivelato se l'operazione sia stata fatta in Iraq o in Siria, così come non ha confermato specifici legami con i fatti di Bruxelles. L'intenzione degli Stati Uniti sarebbe stata quella, in realtà, di catturarlo vivo, e non ci sono riusciti. Massima allerta anche nelle città italiane mentre si parte per le vacanze pasquali, e fanno sapere dal Viminale, dal Ministero dell'Interno, sono stati intensificati i controlli anche sulle autostrade, con posti di blocco e controlli ai caselli. Quindi se incappaste in questi controlli sapete perché: per motivi di sicurezza, dopo la decisione di decretare anche in Italia l'allerta 2. Misure rafforzate anche a Roma, dove questa sera si attende la Via Crucis del Pontefice al Colosseo. Poi ci colleghiamo direttamente con un nostro collega a Roma che sta seguendo l'evento. Nel frattempo, dal Consiglio dei Ministri, sempre nell'ordine di idee di aumentare la sicurezza, arriva il via libero alla banca del DNA. I campioni genetici uniti alle fotosegnaletiche e alle impronte digitali saranno lavorati e custoditi al Viminale. Nasce la banca del DNA, che raccoglierà i dati relativi alle persone condannate. La misura è stata approvata dal Consiglio dei Ministri, così il titolare degli interni Angelino Alfano. Un passo in avanti che ha pochi precedenti in Europa e che consentirà l'archiviazione dei dati dal punto di vista proprio scientifico e del DNA, che saranno importantissimi sia nella lotta al terrorismo che nella lotta alla criminalità organizzata, che nel contrasto alla immigrazione irregolare. La norma attuativa di una legge del 2009 prevede 5 categorie di persone il cui DNA verrà preservato: da chi è in custodia cautelare a chi sconta una misura detentiva in via provvisoria o definitiva. Il ministro della giustizia Andrea Orlando. In un momento come questo, in cui la sicurezza è al centro dell'attenzione, credo che sia giusto dire che questo è un passo fondamentale per aumentare il livello di sicurezza del Paese. Il profilo del DNA resterà inserito nella banca non oltre 40 anni, mentre il campione biologico sarà conservato non oltre i 20. Previsto anche un archivio delle persone scomparse. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ecco, arrivano immagini del Papa Francesco, che è arrivato al Colosseo in occasione del Venerdì Santo, sta presiedendo il rito tradizionale della Via Crucis, che è trasmesso tra l'altro in Mondovisione. Si vede quest'area completamente gremita dalla folla che segue l'evento in questo clima di raccoglimento, insomma di grande importanza per la religione cristiana, di fondamentale importanza. Poi dopo ci colleghiamo con il nostro collega e ne parliamo meglio, cerchiamo di capire anche, tra l'altro, no, si dice in una Roma blindata, quali sono stati i controlli, se anche lui ne ha subiti. E intanto dicevamo del ministro, del presidente del Consiglio Renzi, che oggi è volato dopo il Consiglio dei Ministri a Lampedusa. Siamo nel cuore dell'Europa, il punto in cui alcuni cittadini europei hanno mostrato a tutti gli altri quello che va fatto. Così Matteo Renzi da Lampedusa lancia un messaggio all'Europa dopo aver incontrato il sindaco Giussi Nicolini e i rappresentanti della popolazione lampedusana. Una visita, quella avvenuta oggi, la prima di Renzi come presidente del Consiglio, annunciata solo poche ore prima. L'obiettivo dichiarato: prepararsi al meglio a fronteggiare, con l'arrivo della bella stagione, l'intensificarsi degli sbarchi dalla Libia, soprattutto ora che il CPA di Lampedusa è diventato da 5 mesi un hotspot, un centro dunque che prevede norme più stringenti per l'identificazione dei profughi. Una visita, quella del Premier, che ha anche un sapore simbolico dopo gli attentati di Bruxelles, visto che Renzi non smette di chiedere all'Europa un'azione univoca ed efficace sull'emergenza migranti che non lasci da soli i paesi di frontiera. Guai a pensare che di fronte alle grandi emergenze del nostro tempo si possa far finta di niente o essere superficiali, le parole del Premier. Questo non è una lontana periferia, lontana dagli occhi dell'Europa. Questo è un luogo che ha unito la bellezza fisica e geografica dei luoghi alla bellezza dei propri abitanti, che ha permesso di salvare migliaia e migliaia di vite. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi, per quanto riguarda l'omicidio di Giulio Regeni, l'ennesima versione d'Egitto, viene da dire davvero, c'è l'ira dell'Italia, i genitori di Giulio che dicono il governo deve reagire a questa messa in scena. Un vassoio d'argento con i suoi documenti e i tesserini universitari arriva letteralmente servita su un piatto medio orientale, l'ultima versione sulla morte di Giulio Regeni che lascia l'Italia con gli stessi dubbi di prima ma ancora più determinazione a raggiungere la verità, quella vera però sull'uccisione del ricercatore friulano, verità che non coincide con l'ipotesi di una rapina finita male come l'Egitto ora sostiene. Il giovane, secondo il Cairo, sarebbe stato ammazzato perché si sarebbe ribellato ad una banda di criminali a loro volta poi uccisi in un conflitto a fuoco. Una ricostruzione fatta dalla madre e dalla sorella del capobanda, a quanto fa trapelare la procura, che però ancora non condivide molti degli atti richiesti con gli investigatori italiani, certi che il caso non è affatto chiuso. Perché infatti dei criminali comuni avrebbero dovuto torturare per giorni una semplice vittima di rapina e perché poi conservare zaino e documenti? Di fatto, nei due mesi dalla scomparsa di Regeni, dall'Egitto sono arrivate le più varie versioni sul delitto, ma quella verità che la mamma ancora invoca pure su Facebook e che Palazzo Chigi si dice determinato a raggiungere sembra ancora assai lontana. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in tutto questo almeno una buona notizia, una notizia paradossale dalla quale è nata. Si conclude bene infatti la vicenda del professore che era stato licenziato perché all'atto dell'assunzione non aveva dichiarato di avere la fedina penale, per così dire, sporca a causa di un verbale dei carabinieri per aver fatto pipì in un cespuglio. Sarà reintegrato, così ha deciso il giudice Stefano Rò, ha sempre sostenuto che nel suo certificato penale non appariva nulla e oggi dice ci sono molti altri casi come i miei. Ho finalmente avuto il reintegro, per cui una soluzione positiva di tutta la vicenda. È andata bene, reintegrato e poi le danno anche gli stipendi arretrati, no? Esatto, sì. Sì. Adesso spero che, come dire, questo passi un pochino il principio, si imponga il principio, perché sono diverse le persone che si trovano intrappolate in questa situazione. Non è solo lei, tra i casi di questo genere non c'è solamente il suo? No, sono emersi soprattutto dopo il clamore, come dire, sollevato dal mio caso, tanti altri casi simili, soprattutto a Bergamo, si parla addirittura di 50 casi, cioè di persone che hanno riportato nelle autocertificazioni quello che è scritto nei loro certificati penali, cioè nulla, e che invece si vedono contestate queste autocertificazioni perché invece l'amministrazione accede al casellario uso giustizia, dove compaiono anche quelle condanne che invece non sono menzionate nella fedina penale. Questo ha detto oggi il professore intervistato da Simone Spezia. Per chiudere lo sport, con l'incredibile vicenda del giocatore di rugby dell'Amatori Catania Davide Vasto, è stato trovato positivo a ben 11 sostanze proibite. Lui chiede scusa, dice l'ho fatto per ignoranza. Ci mancava proprio il super dopato per tornare a parlare di rugby in un momento che vede la nazionale italiana ai minimi storici da molti anni a questa parte. Sia chiaro, il giocatore non c'entra niente con l'alto livello. È tesserato per l'Amatori Catania, un club di Serie B equivalente a una terza divisione. Rugby dilettantistico e ansia da prestazione non legata certo allo spettacolo e al business. Il giovane risulterebbe positivo ad addirittura 11 sostanze, compresa una che sarebbe servita a contrastare la sgradita controindicazione dell'aumento delle ghiandole mammarie. Una vicenda grottesca, se vogliamo, ma il guaio è che tra risultati e casi di cronaca la palla ovale rimbalza storta. L'ultimo Sei Nazioni ci ha dato un paio di soddisfazioni solo con la squadra femminile, mentre gli azzurri sono partiti discretamente e hanno finito malissimo con 18 mete subite negli ultimi due incontri. Serve una bella inversione a U e per provarci e con un nuovo commissario tecnico, l'irlandese Conor O'Shea. Buona fortuna. Giacomo Bagnasco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oh, e adesso, prima di aggiornare i molti che staranno viaggiando a questo punto nel venerdì prima di Pasqua, scusate, sto guardando i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666. Vedo che continuate a scrivere rispetto al tema che vi avevo lanciato ieri sulla proposta di Massimo D'Alema, però vi chiedo anche quali sono le vostre riflessioni dopo questa settimana degli attentati, quindi tragica, ma anche di notizie, di smentite, di falle, di ritardi, di cose paradossali anche. Per esempio Luciano scrive: beh, e qui abbiamo la dimostrazione che l'Europa fa acqua da ogni parte, forse con i deboli, forte con i deboli ma deboli con i forti. Questa Europa a me non piace, non ha carattere, perché non ci uniscono i vari eserciti e non si interviene in Siria, non per uccidere i civili ma per combattere questi pazzi. Non si può sempre aspettare l'America. A questo proposito, visto che spesso, anzi costantemente viene tirata in ballo l'Europa, vi ricordo che sul sito di Radio 24 potete votare a questa domanda: perché l'Europa è così impopolare? Radio24.it. Poi Roberto scrive sulla pagina Facebook: ma sinceramente, con un po' di stupore, non per il pessimismo che circola, ma un attentato in grande stile mi sembra evidente e speriamo di no, inevitabile in Italia. Dice: ovviamente sono sicuro del grande lavoro dei servizi segreti tra paesi dell'Unione Europea, che le povere vittime non siano morti in vano. Buon lavoro a te, ti ringrazio Roberto. Poi al 349-238-6666, lutto nel mondo, ecco, è arrivata questa notizia in questo momento, lutto nel mondo del teatro, è morto il grande Paolo Poli, attore toscano di lunghissima carriera, di grande fama. Ci mancava questo, insomma, per chiudere bene la settimana. Allora ci sentiamo dopo gli aggiornamenti per chi piace. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Dicevo, ci siamo prima lasciati con la notizia che è morto l'attore Paolo Poli, poi man mano magari vi darò anche qualche ulteriore dettaglio della sua carriera, però noi ritorniamo sulle notizie di questi giorni, tra poco faremo il punto sulle ultime indagini, le ultime novità dalle indagini di Bruxelles, sugli attentati di Bruxelles, però adesso sentiamo, forse si sentono le parole del Papa? Nostris. Et ne nos inducas in tentazione. No, sono del Papa, muoveva le labbra, ma in questo momento non si sente direttamente lui, che è al Colosseo per celebrare la Via Crucis, se ne parleremo tra pochi istanti. Intanto ancora brevemente qualche vostro messaggio, vi dicevo, vedo che scrivete ancora sulla proposta di Massimo D'Alema dell'8x1000 per costruire moschee in Italia. Andrea da Bologna dice: come al solito dai politici arrivano iniziative con quattrini e burocrazia, l'integrazione la facciamo quotidianamente noi semplici cittadini, dice Andrea. Ad esempio al bar di fronte casa, frequentato da rumeni, albanesi, persone di colore, ovviamente musulmani, basta una parola, un saluto, un sorriso, una stretta di mano. Nella zona dove abito ci sono attività gestite da cinesi e pakistani, problemi zero, bisogna sforzarsi di non farli sentire fuori casa. Questo è il consiglio di Andrea da Bologna. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, sia appunto sulle polemiche di questi giorni, se volete anche, vi dicevo, dopo una settimana tesa di questo tipo, che cosa, quali sono le vostre riflessioni. Vi ricordo però velocemente anche quali sono le notizie più importanti se avete acceso la radio adesso invece che puntualmente alle 21. Ondata di arresti a Bruxelles e Parigi, Hollande parla di una cellula annientata, però dice ce ne sono altri. Intanto Salah fa sapere che non ha più intenzione di parlare, e c'è aggiornamento sulla italiana Patricia Rizzo, che era considerata dispersa, invece arriva la conferma che è morta. Presi i killer di Regeni, la nuova, ennesima, assolutamente bislacca versione dell'Egitto, direi anche offensiva a questo punto. Infatti c'è l'ira dell'Italia e i genitori di Giulio che dicono: vogliamo tutta la verità, basta con questa messa in scena. E poi è stato ucciso dalle forze americane in Siria il numero 2 dell'ISIS. Renzi oggi è volato a Lampedusa e ha lanciato questo appello dicendo: questo è il cuore spirituale dell'Europa, l'Europa non deve fare finta di niente di fronte alle emergenze. E poi la Via Crucis del Papa, di cui parliamo tra pochissimo. E lì a Roma, in diretta da Roma, c'è Andrea Viali. Buonasera Andrea. Sì, buonasera Roberta. Dal Colosseo, dove è iniziata poco fa, avevo accennato, la Via Crucis celebrata da Papa Francesco, rientra, ve lo ricordo, nei riti dei giorni, tre giorni a partire da ieri, che precedono la Pasqua e costituiscono quindi il cuore dell'anno liturgico per i fedeli cristiani. Dalla lavanda dei piedi alle 14 stazioni della Via Crucis, la lavanda dei piedi che c'è stata ieri come rito, con il Papa che ha lavato i piedi a 11 profughi e a una operatrice volontaria, tra cui c'erano tre donne tra questi profughi. La primissima volta, tra l'altro, che un papa lava i piedi anche a delle donne, proprio questo nella direzione del nuovo corso che Francesco ha dato alla Chiesa. Dicevo, i riti che vanno dalla lavanda dei piedi alle 14 stazioni della Via Crucis di questa sera. Il Venerdì Santo è il giorno in cui si ricorda appunto la crocifissione, la morte e la deposizione di Gesù per i credenti. Andrea, che atmosfera c'è? Io vedo tante luci, tante fiammelle, almeno così da un punto di vista visivo suggestiva. Beh sì, effettivamente, non per usare un luogo comune, però è uno scenario veramente suggestivo quello in cui si svolge questa Via Crucis, perché è la parte finale di Via dei Fori Imperiali e poi il Colosseo che, come forse potrai vedere in televisione, è illuminato in pratica a giorno e sì. Quindi siamo nel cuore di Roma, ecco, cosa aggiungere? La cerimonia religiosa, lo dicevi, è iniziata da pochi minuti, durerà circa un'ora, sarà presieduta come vuole la tradizione dal Papa, da Papa Francesco, e la croce verrà trasportata nelle 14 tappe, delle 14 stazioni, nella prima e nell'ultima sarà portata dal vicario del Papa per la diocesi di Roma, che è il cardinale Vallini, mentre poi nelle altre stazioni a portarla saranno anche fedeli di molte altre nazionalità. Quest'anno ci sono anche dei cinesi, degli ugandesi, dei siriani, come sempre vuole la tradizione, si dà spazio ai cattolici di tutto il mondo. Andrea, senti, però oggi, i controlli, questo è interessante perché vedevo veramente tanta folla intorno al Colosseo, com'è da un punto di vista della sicurezza? Devo dire che molti turisti, anche fedeli, stanno ancora camminando su Via dei Fori Imperiali, stanno raggiungendo il Colosseo. Beh sì, chiaramente non c'è soltanto l'aspetto religioso a tenere banco quest'anno, perché dopo quanto è successo a Bruxelles c'è massima allerta, chiaramente anche qui per timore di nuovi attentati. Per questo la macchina dei controlli fin da oggi pomeriggio qui ha lavorato, come si dice, a pieno ritmo, e attorno al Colosseo è stata istituita una zona di massima sicurezza dove i fedeli sono arrivati soltanto dopo una serie di controlli. Ci sono una serie di varchi, controlli che hanno impiegato chiaramente molti uomini delle forze dell'ordine, la cui presenza, è anche in questo momento, anche nelle vie limitrofe, molto ben visibile. Però comunque fortunatamente, almeno finora, tutto si è svolto senza intoppi e anche seguendo quello che più o meno possiamo dire che è un modello organizzativo che è stato ben rodato nelle ultime settimane, soprattutto per quanto riguarda, è stato adottato anche per seguire tutte le altre iniziative religiose in Vaticano legate all'anno santo. Tu hai subito controlli anche tu? Io mi sono affacciato fino ai primi varchi, non sono andato oltre. Ah, quindi per il momento sei esente, da controlli. Sì, no, però ho assistito anche a vari controlli e non lontano da qui, arrivando verso la zona della Bocca della Verità, ho assistito anche a un intervento di una pattuglia della polizia, sono intervenuti degli artificieri perché c'era una valigetta, una 24 ore, un pacco sospetto, chiaramente poi si è rivelato fortunatamente un falso allarme, però immaginiamoli, la presenza questi frangenti della polizia è molto visibile in città. Grazie. Della polizia, di tutte le forze dell'ordine, Roberta. Grazie Andrea Viali, buon proseguimento allora a Roma, ciao Andrea. E da Roma, dal Colosseo, dove si sta celebrando la Via Crucis, a Bruxelles, dove c'è il nostro Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao Roberta. Senti, allora, la notizia che purtroppo, quella l'ultima che è arrivata rispetto agli aggiornamenti dopo gli attentati di Bruxelles, è quella della morte ormai confermata di Patricia Russo, no? Rizzo, scusa, Patricia Rizzo, che era l'italiana che era data per dispersa da diversi giorni, una funzionaria di un'istituzione europea, e adesso il cugino ha scritto su Facebook che purtroppo è morta. Quindi il bilancio era fino a poco fa di 31 vittime e oltre 300 feriti, adesso quindi dovrebbe essere aggiornato ad almeno 32. Però comunque proseguono le operazioni antiterrorismo, no? Oggi tra Francia e Belgio si parla di un pesce grosso, prima sembrava che fosse super ricercato, poi è stato smentito, si parla comunque, le forze di sicurezza belghe parlano di un pesce grosso, anche se mi sembra pescato comunque con una barca che fa acqua da tutte le parti, Sergio. Sì, innanzitutto la giornata di oggi, più che altro il pomeriggio, perché la mattina è stata relativamente tranquilla con la visita di John Kerry, segretario di Stato americano. Qui il pomeriggio è stato segnato da più allarmi, da più notizie, uno su tutti appunto, ne abbiamo parlato molto nei nostri notiziari, questa sparatoria alla fermata del tram, dove un uomo è stato praticamente immobilizzato, stava prendendo il tram e era sorvegliato, pare che fosse collegato comunque all'arresto ieri di un uomo, di un francese d'Argenteuil, pronto a passare all'azione. Un episodio molto strano, stava fermato il tram, aveva un sacco, uno zaino con sé, sono arrivate due macchine della polizia sui binari, gli hanno intimato di arrendersi, di consegnarsi. Lui non l'avrebbe fatto, l'hanno neutralizzato sparandogli alle gambe. Si è parlato anche di una bambina e di una donna che lui avrebbe preso temporaneamente in ostaggio, ma i contorni sono molto poco definiti. Questo però chiaramente ha messo anche agitazione e paura a Skerbeck, che è stato teatro di questa azione. Ma non è stato l'unico controllo, tuttora sono in corso perquisizioni, controlli, anche ieri sera vicino al mio albergo ne ho potuto testimoniare uno. È chiaro che le autorità stanno cercando di stringere il cerchio, probabilmente stanno piano piano ricostruendo i tasselli del puzzle di indagini e definendo i contorni. A questo proposito, Sergio, poi ci salutiamo, mi sembra che per ricostruire i tasselli un sacco di notizie, annunci, smentite, poi su Salah sembra che collaborasse, poi no, poi invece sì, poi di nuovo ha detto che non collabora Salah Abdeslam, no? È difficile capire cosa stia succedendo veramente, perché sembra veramente paradossale il fatto che abbia parlato solamente un'ora prima degli attentati in Bruxelles. Questo è un paese per certi versi surreale, purtroppo. Sì, devo dire che è l'aggettivo giusto, spiace dirlo. No, ma è surreale, basta dire che fino a poco tempo fa, non so se questo lo abbiamo detto, ma era impossibile eseguire delle perquisizioni dalle ore 21 alle ore 5 del mattino. Spero che adesso l'abbiano eliminata questa norma. Per casi gravi come il terrorismo, non per la criminalità comune. Questo secondo me sottolinea bene quanto questo paese sia sostanzialmente abbastanza surreale. Questa è la fotografia. Sergio Nava, ti ringrazio. Sergio da Bruxelles. Grazie a te. Ciao Sergio, poi continuerà negli aggiornamenti anche domani. Ciao Sergio. Saluto invece adesso Alessandro Orsini, che è docente di sociologia del terrorismo all'Università Luiss, autore del libro ISIS, i terroristi più fortunati del mondo e tutto ciò che è stato fatto per favorirli. Mi pare un titolo inquietante, professor Orsini? Buonasera. Ma io credo che descriva bene quello che è accaduto. Sono i terroristi più fortunati del mondo perché a causa di una serie di incredibili circostanze internazionali gli stati che avrebbero dovuto unirsi per combattere contro l'ISIS in realtà non hanno combattuto per riconquistare Raqqa, ma si sono combattuti tra di loro. Quindi la sua ironia, diciamo, professor Orsini, perché situazioni fortuite, incapacità, quindi. È una constatazione, cioè Stati Uniti, Russia, Arabia Saudita, Iran, Turchia e Qatar mentono spudoratamente perché affermano che la loro priorità è la lotta contro l'ISIS, ma in realtà la loro priorità è la lotta per la conquista di Damasco, vale a dire la lotta per la conquista di un pezzo importantissimo di Medio Oriente che si chiama Siria. E questa è la fortuna dell'ISIS, perché quando gli aerei russi si sono alzati in volo a partire dal settembre del 2015 hanno bombardato quasi esclusivamente i ribelli filoamericani che cercavano di rovesciare Bashar al-Assad, non hanno bombardato principalmente le postazioni dello Stato Islamico, tant'è vero che la quasi totalità dei bombardamenti russi è avvenuta sulla fascia costiera della Siria, dove non c'è nemmeno un militante dell'ISIS, ma dove ci sono delle basi navali di grandissima importanza per la Russia. Per esempio a Tartus la Russia nel 1971 costruì una base navale che è l'unica base navale che consente il rifornimento delle navi russe nel Mediterraneo, quindi Putin preferirebbe fare la terza guerra mondiale piuttosto che perdere gli interessi che ha sulla fascia costiera della Siria. Quindi sono i terroristi più fortunati del mondo, perché in realtà l'ISIS è un fenomeno sotto il profilo militare irrilevante. Io ho studiato tutte le conquiste che l'ISIS ha realizzato in Iraq, in Siria, in Libia, e quello che ho trovato è che l'ISIS è il nulla che avanza nel niente, nel senso che tutte le volte che l'ISIS ha conquistato una città e noi ne siamo rimasti impressionati è perché non ha trovato un'opposizione davanti a sé. Quando ha conquistato Mosul nel giugno del 2004, da cui poi al-Baghdadi ha proclamato per la prima volta questo Stato islamico, i soldati iracheni si sono confusi tra la popolazione, hanno abbandonato le armi e le divise e sono scappati. Quando hanno conquistato Sinjar il 3 agosto del 2014 c'erano soltanto 250 peshmerga curdi in difesa di Sinjar che sono scappati via. Quando hanno conquistato Ramadi nel maggio del 2015 c'erano 10.000 soldati iracheni che sono letteralmente scappati davanti a 900 miliziani dell'ISIS in un rapporto di 1 a 10, tant'è vero che il Parlamento iracheno ha aperto un'indagine per comprendere che cosa diavolo sia successo. Sono particolarmente brutti, sono particolarmente brutti questi dell'ISIS, no, che si scappano in 10.000. No, scappano perché l'ISIS si è trovato con questa enorme fortuna di nascere nel posto giusto al momento giusto, vale a dire in un processo di disfacimento statuale della Siria e dell'Iraq. Pensi che quando l'ISIS conquistò Palmira nel maggio del 2015, Palmira si trova in Siria, non in Iraq, era difesa dai soldati di Bashar al-Assad, i soldati di Bashar al-Assad avevano terminato le munizioni. Adesso quello che però vorrei dire è che questa fortuna dell'ISIS si sta esaurendo. Professor Orsini, però non mi sembra che si sia esaurita in Belgio. Il Belgio, coerentemente con la sua analisi fatta sinora, mi pare che abbia dato loro lo stesso agio e quindi le stesse condizioni favorevoli. No. Questo io contesto in maniera frontale, assolutamente in maniera frontale, totalmente lei, perché è una giornalista di straordinaria bravura, ma è totalmente, guardi, l'attentato di Bruxelles dimostra su basi empiriche che noi abbiamo drasticamente ridotto le capacità operative dell'ISIS. L'ISIS a Parigi il 13 novembre del 2015 aveva utilizzato un gruppo di fuoco di 10 jihadisti che, oltre a utilizzare le cinture esplosive, hanno utilizzato anche i mitragliatori, e questo fa una differenza enorme perché la gran parte delle vittime di Parigi è stata uccisa dai mitragliatori, non dalle cinture esplosive. Tutto quello che adesso l'ISIS utilizza a Bruxelles sono soltanto 3 kamikaze che non utilizzano nemmeno i mitragliatori. E la notizia che è stata utilizzata per impressionare le persone, secondo cui c'è uno stesso artificiere che ha realizzato entrambi gli attentati, ma questa è la prova provata della debolezza dell'ISIS, perché se l'ISIS ha soltanto un artificiere che ha il compito di realizzare le stragi in tutta la Francia, da un paese all'altro d'Europa, vuol dire che in 4 mesi, cioè dal 13 novembre del 2015 a oggi, l'ISIS non ha accresciuto il numero dei jihadisti, perché se l'ISIS ha utilizzato 3 jihadisti in Belgio anziché 8, è soltanto per una ragione, perché non ce li ha 8 jihadisti che si facciano saltare in aria a Bruxelles. Questo vuol dire che negli ultimi 4 mesi l'ISIS non ha accresciuto il numero di jihadisti che siano disposti a farsi saltare in aria, perché tutte le organizzazioni terroristiche, questo insegna la storia del terrorismo, hanno un interesse a realizzare attentati terroristici sempre più sanguinosi per dimostrare che sono sempre più forti. Nessuna organizzazione terroristica sceglie deliberatamente di abbassare il tiro. E tra l'altro a Bruxelles, io chiaramente il terrorismo è un orrore assoluto e piango tutti questi morti, ma a Parigi ne abbiamo avuto 129 morti, a Bruxelles ne abbiamo avuti 31, quindi se quello che sta in realtà accadendo, vede, io ho studiato tutti gli attentati terroristici di Boko Haram in Nigeria. Sì, che adesso sembra che si arrenda, ma non si capisce, non so se c'è da fidarsi. Sì. Esatto, io ho studiato tutti gli attentati in Somalia di Al-Shabaab, quelli dell'ISIS, e quello che ho trovato è una regolarità, e cioè che queste organizzazioni jihadiste realizzano attentati terroristici all'estero quando sono costrette ad arretrare sul proprio territorio. E da qui ho, nel mio libro, elaborato una formula che è la seguente: arretramento in casa, avanzamento all'estero. Quindi in realtà noi siamo tutti vittime di un'illusione ottica, perché noi pensiamo che i terroristi siano più forti quando in realtà sono più deboli, e quando i terroristi sono più deboli che realizzano attentati contro le città occidentali, perché sperano che in questo modo noi allentiamo la presa sul loro collo, perché sostanzialmente stiamo strangolando l'ISIS. Anziché nel gennaio del 2016 al-Baghdadi ha dovuto introdurre a Raqqa, che è la capitale dello Stato Islamico, la misura del pane calmierato, e ha dimezzato tutti gli stipendi del 50%. Quindi se lei guarda quello che sta accadendo in Siria e in Iraq, allo Stato Islamico, è semplicemente che si sta avviando verso la sua morte. Paradossalmente, quindi, Orsini, lei ci sta dando delle gran buone notizie, controcorrente rispetto a quello che si dice, però dall'altra ci sta anche sottolineando ancora di più l'inadeguatezza dell'intelligence e della strategia europea, perché se sono così pochi e così disperati per certi versi, forse avremmo già da tempo dovuto... No? Ma è intanto una bruttissima notizia da darle, perché sulla base dei miei studi quello che io prevedo è che avremo altri attentati contro le città occidentali, perché più l'ISIS sarà costretto ad arretrare, più cercherà di realizzare attentati terroristici contro le nostre città. Quindi io francamente prevedo che ce ne saranno altri, anche perché credo che nessuno possa immaginare che questo sia l'ultimo attentato terroristico della storia dell'umanità, questo contro Bruxelles, ma in prospettiva l'ISIS è destinato ad essere sconfitto. Adesso, per rispondere alla sua domanda, il punto è questo: non è possibile dare un giudizio complessivo dell'intelligenza europea, perché non esiste. Noi in Italia abbiamo un eccellente servizio di intelligence, e la ragione per cui la nostra intelligence è eccellente è una ragione storica, perché noi veniamo da un'esperienza che è quella degli anni di piombo. Esatto, non dimentichiamo che l'Italia tra il 1970 e il 1985 è stato il paese di tutta l'Europa occidentale maggiormente interessato da attività attività terroristiche, quindi abbiamo un'esperienza enorme in questo campo. Il Belgio ha un'intelligence di livello inferiore, ma la ragione per cui noi non abbiamo un'intelligence europea, e questo è un grande paradosso della storia, è che è paradossalmente da attribuire alla Francia, perché il paese che oggi invoca di più un esercito unitario, una politica unitaria, è la Francia, ma la Francia storicamente ha sempre frenato il processo di integrazione europea per la costituzione di un esercito europeo, perché non voleva spogliarsi di pezzi della propria sovranità. E quindi adesso si sta verificando questo incredibile paradosso della storia, per cui la Francia ha un'urgenza enorme di creare un'intelligence unificata, però insomma, ripeto, non si può parlare di un'intelligence europea, ci sono paesi che hanno un'ottima intelligence e noi per fortuna siamo tra questi, e paesi che non ce l'hanno per niente buona. Professore Alessandro Orsini, io la ringrazio di questa analisi così interessante, spero di sentirla presto allora. Io la ringrazio. E buona Pasqua intanto. A lei, grazie. Grazie, grazie. Direi che sì, dobbiamo andare immediatamente in pausa. Sì. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto nel momento giusto, con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. I vostri messaggi continuano ad arrivare, stasera siamo particolarmente di corsa, per cui vi ricordo le notizie principali, che sono appunto gli aggiornamenti da Bruxelles. C'è la conferma purtroppo che l'italiana Patricia Rizzo è morta negli attentati, oggi nuovi arresti ci sono stati nella capitale belga con qualche giallo, e si apprende che Salah Abdeslam non collaborerà con gli inquirenti. Guerra al terrorismo, ucciso il cassiere dell'ISIS in un'operazione americana, era il numero 2 del sedicente califfato. Poi l'omicidio di Giulio Regeni, c'è l'ennesima versione d'Egitto, l'ira dell'Italia, i genitori di Giulio che dicono il governo reagisca a questa messa in scena, e poi la morte dell'attore Paolo Poli, una notizia arrivata poco fa, aveva quasi 87 anni, grande attore di teatro e televisivo, anche una forte personalità, irriverente, a volte anche considerato oltraggioso, ma comunque geniale del mondo dello spettacolo, in generale della cultura italiana. Saluto subito Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Guido, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora, devo dire che questo bilancio della politica della settimana, va premesso che la politica italiana si è piuttosto fermata dopo gli attentati di Bruxelles, è stata anche rimandata alla direzione del PD, dove ci doveva essere questa cosiddetta resa dei conti tra la minoranza e la maggioranza sul caso Verdini. C'è sempre però, rimane l'incognita Roma per quanto riguarda il centrodestra in vista delle elezioni comunali, con in campo vari candidati in ordine sparso, e sempre da Roma arriva la polemica che ha investito la candidata del Movimento 5 Stelle Virginia Raggi su alcune dichiarazioni fatte nei giorni scorsi, e poi la notizia che è arrivata ieri che c'è un candidato ufficiale per il Movimento 5 Stelle a Milano, che è Gianluca Corrado. Collegandosi invece agli attentati di Bruxelles, a parte le dichiarazioni dei ministri Alfano e Orlando sulle questioni di sicurezza, non è mancata questa polemica, sulla quale anche le ascoltatrici e gli ascoltatori hanno twittato e hanno mandato molti messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sulle lacrime di Federica Mogherini, alta rappresentante della politica estera dell'Europa, che appena appresa la notizia, era in Giordania, degli attentati di Bruxelles, ha avuto un momento di commozione. Giorgia Meloni ha detto: mi vergogno di essere rappresentata da lei, si deve dimettere. Bertolaso è tornato di nuovo a far polemica sulla 7, ieri sentiamolo. Quelle lacrime? Trovo imbarazzante che il ministro degli esteri dell'Unione Europea si metta a piangere dopo un attentato del genere. Il ministro degli esteri dell'Unione Europea, come tutta la Commissione Europea, deve far vedere appunto che noi non abbiamo paura, che noi non ci facciamo intimidire, che noi anzi vogliamo reagire. Quindi è d'accordo reagire. Con Giorgia Meloni su assolutamente questo? Assolutamente sì. Come al solito. Adesso così diciamo, diranno che sono maschilista. Anche se Juncker, ma non c'è bisogno anche di se Juncker si fosse messo a piangere, diciamo, avrei detto quindi, che veramente è una scena imbarazzante. Gli europei vogliono essere rassicurati dai loro leader. Guido Gentili, allora ti chiedo, la Mogherini ha espresso spontaneamente la sua umanità in mezzo a tanta obbrobriosa disumanità, o ha mostrato debolezza? Ma io direi che ci sta un momento di emozione, ci può essere, siamo anche mediaticamente abituati a questo, perché ricordiamoci delle lacrime del ministro Fornero, che però era una questione un po' diversa, no? Lì era un po' la tensione di sapere di aver fatto qualcosa che insomma non sarebbe stato molto, certo, molto però, gradito. Insomma, diciamo, è stato diciamo in pubblico, è stato un ministro, un neo ministro che piangeva una donna. Quindi voglio dire, secondo me ci sta un momento per un motivo o per un altro di emozione, quindi non sarei solo diciamo a una condanna muscolare su un momento del genere. L'importante è che l'Europa sappia reagire, questo sì. L'importante è che l'incarico che ricopre la Mogherini è un incarico sulla carta molto importante, ma noi sappiamo anche che per esperienza è un incarico purtroppo spesso vuoto, cioè nel senso che poi non si riesce a coordinare la politica estera di un'Europa che su questo terreno è dal punto di vista dell'integrazione assolutamente deficitaria. Come si sta dimostrando in questi giorni, no? Il resto ancora più sottolineato. Quindi l'importante è che prenda la Mogherini e l'Europa prendano delle decisioni. Se poi c'è anche un momento di commozione, beh, insomma, con questo non farei, diciamo, un dibattito ideologico su questo, ecco. Senti, invece, Guido Gentili, per quanto riguarda, di nuovo, in campo, il protagonista Bertolaso, no? Roma, centrodestra, ancora un po' di caos. Bertolaso però ha detto in un'intervista al Corriere della Sera che se proprio capisce che non si arriva al ballottaggio, lui che è ormai candidato di Forza Italia, perché sappiamo che Lega e Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, sono sì, solidali tra loro per la candidatura della Meloni, dice Bertolaso, se proprio non si arrivasse al ballottaggio, lo capiamo, allora si potrebbe convergere su Alfio Marchini, un altro che come me viene dalla società civile e che già ha appoggiato il nuovo centrodestra. Che ti sembra di questa possibile ipotesi? Ma mi sembra che Bertolaso sia in sintonia, diciamo, progressiva con quelle che sono le indicazioni che arrivano da Silvio Berlusconi, e siccome si è ventilata la possibilità di rimettere in campo da parte di Forza Italia la candidatura Marchini, e si è studiata anche, sappiamo, una formula per cui Marchini potrebbe essere il candidato sindaco e Bertolaso il city manager, insomma il direttore generale, chiamiamolo così, del comune di Roma, e quindi che si possa trovare su questa ipotesi anche un'intesa con Salvini in primo luogo e poi anche con la Meloni. E quindi voglio dire, in questo momento, diciamo, il centrodestra è di nuovo in una situazione molto fluida, per cui io non escluderei sorprese e che quindi ci sia una convergenza poi di nuovo sul nome di Marchini, tanto il fatto che i sondaggi tutti dicono che in questa situazione il centrodestra, quindi presentandosi con vari candidati, non va da nessuna parte. Già. E quindi credo che poi alla fine diventa gioco forza, diciamo, perché la politica poi è fatta di compromessi, anche, di compromessi, no? Anche di conti con la realtà, che si possa arrivare a una situazione del genere. Di quel tipo. E avremo modo di vederne comunque fino a giugno. Grazie Guido Gentili, buona Pasqua. Grazie a voi, buona Pasqua. Ciao Guido, Viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E anche in pochi secondi, ondata di arresti ancora oggi a Bruxelles. Salah dice che adesso non parla più, intanto è certificato che è morta l'italiana data per dispersa. Presi killer di Regeni, l'ennesima versione d'Egitto, c'è l'ira dell'Italia e i genitori di Giulio che dicono tutta la verità e niente di meno vogliamo, basta con questa farsa. E poi l'attore Paolo Poli, notizia di poco fa, è morto il grande attore di teatro e televisione. Europa 24 notte. Parliamo di eccessiva dolcezza, ma quella alimentare. L'OMS contro l'Unione Europea sulle diete infantili, diabete e malattie cardiovascolari sono gli obiettivi contro i quali si attiva l'iniziativa lanciata dal Parlamento Europeo per ridurre la quantità di zuccheri nei cibi per neonati. Sono ormai anni che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lavora sugli effetti dannosi degli zuccheri. Inizialmente le raccomandazioni riguardavano gli adulti e i bambini. Dimezzare da 10 a 5 cucchiaini al massimo al giorno l'apporto di zuccheri era il primo obiettivo. La riduzione era motivata dall'incidenza che gli zuccheri hanno sull'obesità, il diabete e le malattie cardiovascolari. Dimezzare il quantitativo di zuccheri è una dinamite politica, disse subito Philip James, presidente dell'International Association for the Study on Obesity, organismo che collabora con l'OMS. Il portavoce di Sugar Nutrition UK, l'organismo di ricerca finanziato dai produttori di zucchero, rispose subito che lo studio dell'OMS non era credibile. Eppure la sua è una voce quasi isolata nel panorama scientifico, come ci racconta il professor Gabriele Riccardi, professore associato di malattie del metabolismo metabolismo e ricercatore presso il Barilla Center for Food and Nutrition. Credo che su questo non ci siano dubbi. Ovviamente, diciamo, l'entità della riduzione varia da paese a paese. L'Italia probabilmente non è tra quelli messi peggio rispetto ad altri paesi come per esempio la Spagna, però il fatto che un eccesso di zuccheri possa essere dannoso per la salute del bambino e dell'adulto, credo che su questo non ci siano dubbi. Questa dunque è la premessa per affrontare l'argomento di oggi, che riguarda la scelta del Parlamento europeo di dire no al progetto di norme comunitarie grazie alle quali gli alimenti per i neonati avrebbero continuato a contenere fino a 3 volte più zucchero di quanto raccomandato dall'OMS. Il veto è stato approvato con 393 voti favorevoli, 305 voti contrari e 12 astensioni. Pier Nicola Pedicini, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che ha votato a favore. Ormai c'è una presa di consapevolezza in tutto il territorio dell'Unione Europea che c'è una prevalenza del sovrappeso in età pediatrica che supera i valori preoccupanti. Allora per noi questo qui è una priorità. La salute è una priorità, specialmente per i bambini, e ci sembra davvero molto secondario che le industrie dell'industria dolciaria in generale spinga per un approccio totalmente diverso che salvaguarda i loro interessi commerciali. Noi crediamo che l'industria, soprattutto quella italiana, quella dolciaria, deve affrontare queste sfide. Di diverso avviso il parere di Elisabetta Gardini, europarlamentare del Partito Popolare Europeo. Mi sembra veramente un allarmismo pazzesco, anche perché oltretutto se lei va a vedere etichette di questi cibi a cui fa riferimento la direttiva, sono molto al di sotto dei massimali, perché quello appunto è un massimale, le ho fatto l'esempio. Se, per assurdo, se uno facesse il vasettino con la frutta dentro, dovrebbe andare a togliere il fruttosio, che, le ripeto, una mela naturale grattugiata supera quel quantitativo. Quindi mettere queste regole, pretendere, voglio dire, di mettere queste regole, sono cose veramente demagogiche. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus.